cosa sono le nuvole grigie, le parole buttate nel vento, quelle gocce che sciolgono il fango mentre senti una stanza che sbatte là dentro. A che serve una testa diversa per capire e non fare rumore, che chi sente già troppo lontano e non riesce a sentire neppure l'odore. Se cerchiamo nelle nuvole le fate e non crediamo a quello che ci dite voi, incontreremo un mezzo sogno dell'estate senza finire nelle trappole per noi. State più attenti che gli amici truffatori, abituati a dire ci pensiamo noi, a regalarvi troppe gioie, a dare via troppi dolori, da sentirvi mezzi santi e mezzi eroi. Avremo poco fiato e voci stonate e non saremo neanche furbi come voi. Le nostre urla da lontano pregheranno i vostri cori, ma credete solamente nei colori. Allora ci vediamo poi. Le nuvole appese, le parole che viaggiano in fretta, se c'è sempre chi prova a spiegarle mantenendo la solita testa irrisolta. A che serve un momento da soli per pensare a un bisogno diverso, che le gabbie non hanno colori e quel ferro si dice più freddo di un cesso. E se cerchiamo nelle nuvole le fate e non crediamo a quello che ci dite voi, incontreremo un mezzo sogno dell'estate senza finire nelle trappole per noi. State più attenti, cari amici truffatori, abituati a dire ci pensiamo noi, a regalarvi troppe gioie, a dar via troppi dolori, da sentirvi mezzi santi e mezzi eroi. Avremo poco fiato e voci stonate e non saremo neanche furbi come voi. Le nostre urla da lontano fregheranno i vostri cori, ma credete solamente nei colori. Allora ci vediamo poi. Cerchiamo nelle nuvole le fate e non crediamo a quello che ci dite voi, incontreremo un mezzo sogno dell'estate senza finire nelle trappole, non morire mai.